24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. I cittadini italiani devono sapere che oggi verrà istituita, eccoli eccoli, gli ipocriti del Parlamento, che vi vantano in televisione di aver approvato una legge per istituire la memoria degli immigrati, allora, ma mangiate sulle cooperative degli immigrati. Colleghi, colleghi, lasciamo parlare il deputato. Grazie. Di Battista. Italia no. L'ipocrisia della propaganda. Bisogna... Anche dei colleghi della Lega che dicono 40 euro a immigrato quando 30 se li fottono le cooperative, o di destra o di sinistra. Questa è la verità. Se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi. Grazie signor Presidente. Concluda. E riconoscere quelli che sono i drammi propri. Grazie signor Presidente. Grazie deputata Grimoldi per l'intervento. Bene, allora deputato Busin, a lei, prego, sempre a titolo personale. Una pizza in non c'è cosa che fa imbestialire la Boldrini più di chiamarla signor Presidente. E allora lei, grazie al deputato, deputata Grimoldi. Vi saluta il giornalista Alessandro Milan. Eccoci, buongiorno alle 6:34 minuti. Saluto anche il nostro regista Peter Bescapè in regia. E il nostro collega. Basta, sì, ho capito. Lorenzo Lespoli in redazione. Siamo tutti qui a 24 mattino. Perché siamo maschilisti, allora ci chiamiamo 24 mattino. Mentre per esempio Federico Novella, nostro amico, fa mattino 5. Anche lui, perché se fosse una donna sarebbe mattina 5. Noi non siamo 24 mattina, siamo 24 mattino, per esempio, che conduco io. La settimana in cui ho condotto Anna Migliorati era 24 mattina. No, non avete cambiato titolo. Ah no. Vabbè, 6:34 minuti, buongiorno, siamo qui, dai. Voglio subito salutare il nostro Paolo Del Debbio, buongiorno, che combatte tutti i giorni sulle T4 dalla vostra buongiorno, parte. Tutto bene? Tutto bene, il giornalista collego Paolo Del Debbio, eccolo. Eccolo qua. Vivo Milan. Eccolo qui, eccolo qui. Sai, caro Paolino, chi c'è con te oggi? Immagino ho tre possibilità, spero una delle tre. Vabbè, perché tre? Quali sarebbero queste tre possibilità? Dimmi, poi ti dico se ce l'ho azzeccato. Vabbè, dai, allora vediamo un po', scopriamolo. Sarà, sarà. È lei, l'Aurora. L'Aurora. Hai azzeccato Paolo Del Debbio? Buongiorno. Ho azzeccato. Aurora Lussana. Come sempre un caro saluto a te Milan, anche se sto cognome fa un po' gender, quindi decidi o Milano o Milana, Milan no, così scusa, Milan, un po' terzo genere. No, scusa, è l'unica cosa che non mi devi toccare. È Milan proprio. Cioè. Un caro saluto anche a Del Debbio, che quando mi fai collegamenti con i sindaci della Bergamasca, ragazzi, sì, mi si alza la pressione. Ieri c'era un collegamento collegamento col sindaco non della Bergamasca, ma buon anno, eh? Uno che combatte, mamma mia, del Debbio. Collegamenti, ragazzi. Bene, buon anno, è uno che ne regala abbastanza, eh? Vabbè. Allora, siamo qui, avete sentito come si combatte per la questione degli immigrati, no? Anche tu, Paolo, ieri però l'hai trattata. Un tema, io vedere affrontare un tema così delicato con le risse parlamentari, le questioni, mamma, siamo proprio un paese un po', come un dire? Un paese della giornata della memoria, no? Che ne pensi appunto di questa giornata della memoria istituita per ricordare la tragedia quella di Lampedusa, 3 ottobre? Ma non lo so, sai, voglio dire, ci sono molte tragedie, no? Che si fa la tragedia dei morti nei tribunali, la tragedia dei morti ammazzati, cioè non lo so, mi pare quando si moltiplicano gli anniversari perdono tutti di valore. Un po' retorico, dici, un po' retorico. E vabbè, e invece fai e meno valore hanno i singoli anniversari. Se c'è un anniversario al giorno non se ne accorge più nessuno. E poi c'è questo fatto veramente di capisco che c'è, cioè, cioè anche molta enfasi, si parla di emergenza, poi è un'emergenza da 15 anni, non lo so. E però si affronta così, con risse parlamentari, con diverbi, con dibattiti. Ma davvero un problema del genere così grave non si riesce a affrontare in maniera, come no, dire? No, ma è una questione che manca il coraggio della decisione su questo punto, perché uno potrebbe decidere una politica, diciamo, porte aperte a tutti, radicale, e vabbè, uno può decidere una politica chiusura e va bene, però voglio dire, ora lascia perdere il contenuto per un attimo, no? Ma deciditi su una politica, non puoi fare mezzo e mezzo, perché poi mezzo e mezzo succede che a Firenze occupano la villa del 500 e poi non li togli più, nel Tuscolano vivono in quella specie di schifo, in una specie di fogna a cielo aperto, e sono, mi sembra, 20 ormai le situazioni su Roma. Su Milano sono circa 15, su Torino pure, su altre città pure, tutte situazioni veramente di fogna a cielo aperto in cui vivono le persone, tutto fuori controllo, tutto, cioè che si può fare una cosa del genere? Poi tra l'altro tutto in periferia, quindi si aggiunge problema a problema, perché già chi sta lì non sta bene, in più gli piazzi anche queste situazioni, tutto perché? Perché non c'è il coraggio di decidere una strada piuttosto che un'altra. Vediamo, ce la darà la strada Aurora Lussana, con la consueta pacatezza della Lega, sicuramente. No, Aurora, tu sì, che... No, piuttosto situiamo la giornata dedicata agli invasori, allora, che ha più senso, cioè... Sono arrivati 10.000 immigrati negli ultimi 5 giorni. E cosa sono invasori? È la giornata dell'invasione, quando un paese non è più sovrano o non gestisce più i suoi confini, e noi abbiamo qui la povera, cioè io mi immagino che della Guardia Costiera, visto l'attacco rimorchiatore Asso 21, ieri avevamo l'armatore dell'Asso 21 che effettivamente ha detto è impossibile lasciare gestire una questione così epocale anche a privati, cioè l'Asso 21 è un rimorchiatore con 12 persone a bordo, esatto. E quando ti chiamano e ti dicono devi intervenire perché ti dicono ci sono persone alla deriva, tu intervieni, perché in mare cosa devi fare? Intervieni per salvare le vite umane, però dice noi facciamo i rimorchiatori, siamo privati e siamo, come dire, delegati in qualche modo ad affrontare una questione così, così seria e così grave. Ma comunque, non hai neanche competenza, però in quel momento devono farlo, perché, sì, ma è tutto comunque... perché è tutto in una situazione, Alessandro, che non si capisce niente, capito? Quindi va tutto bene quando c'è il casino. Va tutto bene, in teoria, dello male. Shock economico, sì, no, però meglio un filo emigrazionista convinto che dice accogliamo tutto il mondo, tutta l'Africa, che il DIBA 5 Stelle, quelli che hanno votato per abolire il reato di clandestinità, che adesso fa finta di fare l'antimigrazionista. Dai, non sono il proprio DIBA, il DIBA proprio il non DIBA non si può sentire, non si può sentire. Senti, c'è uno che mi scrive che vuole Aurora Lussana sindaco a Cantù, però è Fabio da Cantù, e quindi non lo so, forse è tuo nipote, ragazzi, a Cantù. Mi sposo a Cantù, ragazzi, appunto. Ma c'è la data? La parrocchia di San Teodoro, la mia parrocchia. Non far finta che non esista, tanto se vuoi lo scopriamo in un attimo, ci sono le pubblicazioni alla parrocchia. Guarda, mi sposo il D-Day, il 6 giugno. Il 6 giugno? Sì. Il 6 giugno. Ma sì, quel giorno lì, tipo, te lo dico subito, adesso tanto non dormirai niente perché sarai nervosa. Ma un piccolo collegamentino alla mattina, il giorno in cui ti sposi? Un minuto? Ce lo fai? Guarda, oggi c'ho la prova del vestito, se mi entra. No, la prova del vestito. Eh sì, ragazzi, oggi. Qua a Bergamo, sono già fuori dal negozio prima che me lo... Prima che te lo fotta qualcun altro, no, non ho capito. Del debbio, è così, insomma. Sei... No, no, no, mettere il vino americano, però non diciamo il vino americano. No, no, no, D-Day. Wagner, ragazzi. 6 giugno, Marcia 6 giugno. Ma c'è lo stare di Wagner qui, non si scherza. Il 6 giugno, il 6 giugno. Ovviamente tutti gli ascoltatori di 24 mattino sono tutti invitati. Sto scherzando. La curia di Milano. Sto scherzando. L'arcivescovo poi interviene. No. Vabbè, io sono qua già segnato sul mio certo, telefono. No, anch'io me lo sono già segnato. 6 giugno. Ecco, magari non so, l'8 giugno, lunedì, non invitare la quinta colonna del tempio. No, facciamo una cosa, andiamoci insieme il 6 giugno. Va bene. Ma senti un po', Aurora, scusa se ci facciamo poi i fatti tuoi, ma avete anche deciso il viaggio di nozze? Eh sì, certo. Si può dire dove andate? Se all'estero. In Val Brembana, no? Grande del nebbio, no? Val Seriana. Esatto, vanno a scoprire con la picozza le montagne orobiche, no? Sì, sulla perla della Val Seriana vado sulle Dolomiti orobiche, la Presolana. Ma dai, aria, smettila. Non si può, La Grigna è nel Lecchese, però, in provincia di Lecco. È anche Comasco, come no? Quindi. Vabbè, non ce lo vuoi dire, ho capito. Vabbè, medita, poi magari un giorno ce lo dirai. Allora, senti un po' Salvini sulla Boldrini, così ti rinfranchi un pochettino. Salvini sulla Boldrini. Boldrini è insopportabile, non è all'altezza di fare il Presidente della Camera. Penso neanche l'amministratore di condominio pontifica a spese degli altri. Ieri, se ci sono stati 400 morti nel Mar Mediterraneo, pesano sulle coscienze dei buoni. Partite, venite, c'è posto, c'è spazio. Dai, però così del debbio, dillo tu, perché Aurora non dirà, ma così è troppo, cioè dai, così è un po' demagogico, Salvini, o no? Sì. No, ma però il fatto che, deve essere preciso, il fatto che molti dei morti pesino sulla coscienza di chi non è capace di decidere una politica in un senso o in un'altra, questo è veramente abbastanza vero. Sì, ma senza dubbio sì, forse della Boldrini pesa per Salvini il precedente ruolo, no? Quando era portavoce. Boldrini va bene su questioni grammaticali, su questo sintattiche, è già più complicato, ma ho visto che ha comprato anche i frigoriferi per i parlamentari, insomma, quindi va bene. Ah, davvero? Questa mi mancava, cioè? Sì, ha comprato il frigoriferino per i parlamentari, visto che si va verso l'estate. Ma per tutti? Cioè 900... Mi pare di sì. No, sì, dai, per tutti. Faranno comunella, un frigoriferino ogni 4-5, spero. No, ma sai, ogni 4-5 non ci metti dentro niente, perché poi metti uno che porta la salamella, quell'altro che porta il coso, e questo... La mortadella, la mortadella in Parlamento, come ce la ricordiamo? No, la mortadella ai tempi di Prodi, tutt'altro livello, per carità. Vabbè. Però io voglio andare al traffico, poi voglio parlarvi di questa, voglio chiedervi questa cosa della Diaz, perché il capo della polizia Pansa ha scritto una lettera a Repubblica dicendo che prova rabbia e stupore per le famose dichiarazioni su Facebook di questo poliziotto Tortosa, che ora fa un'intervista a Repubblica, sembra totalmente un'altra persona, chiede scusa per tutto, chiedo scusa per Giuliani, chiedo scusa per quello che ho detto, chiedo scusa per la Diaz, è stata tortura, è stato di qui, è stato di là, bah, non lo so, misteri italiani, tra poco. E ora Milan... Ma no, saffogo! 24 mattino. Ciao, volevo dire, in questo paese la cosa più strana che succede è che ci sono tutti i delinquenti del mondo a piede libero. Appena arrestano qualcuno, la Corte di Strasburgo ci punisce perché era quello sbagliato, perché è stato arrestato nel modo sbagliato, perché è stato trattato male. Ma riusciamo a far funzionare le cose? Io credo di no. Il presidente Crocetta ha ragione. Lo Stato ci deve dare subito assistenza e finanziamenti perché possiamo affrontare l'emergenza del crollo dei viadotti assumendo nuovi forestali. Torno a ripetere, fate sentire l'opinione della gente sul poliziotto di Genova. Danno l'80% o il 90% ragione a lui. Vergognosi! Giornalisti vergognosi! È simpatica la Lussana, cioè veramente, cioè il tassino a comando, all'inizio fa tutta la religiosa cristiana che crede ai valori della cristianità, della Bibbia, e quindi il matrimonio è solo fra un uomo e una donna, e da una certa parte poi naturalmente la cristianità va a quel paese a farsi benedire perché non bisogna accogliere gli extracomunitari, i poveracci. Praticamente, cioè, la cristianità ha orologeria, secondo, cioè diceva che gli era manca un pezzo. Poi mi spiegano come fanno a giustificare l'alleanza col Berlusca. Una cristiana a metà, insomma, il 6 giugno sarà cristianissima. Dai, io non sono come donna Prassede, la Boldrini, che pensa di avere il monopolio della bontà. Io credo che si può aiutare innanzitutto i nostri fratelli nella fede e poi gli altri che arrivano. Prima i cristiani. Questo aiutiamo, dice, i nostri fratelli nella fede. C'è scritto nel Vangelo, non è che lo dice, come dice quello di Laura Lussana, cristiano orologeria. Però c'è gente che non sa la differenza fra essere cristiani e essere cattolici. Ecco, appunto. Però vorrei un parere. Allora, questo ascoltatore è del Debbio che ci dice: l'80% degli italiani sarebbero con quel poliziotto. Ma che minchia dice? Questo è il mio parere. Però lì gli italiani, almeno dal mio, per quanto possiamo sapere noi, insomma, ecco, voglio dire, non mi risulta, semmai mi risulta il contrario. Ma no, ma anche perché poi non è una questione di essere contro o pro la polizia. Risulta, cioè bisogna dire che quella pagina della Diaz fu una vergogna, è stata una vergogna mondiale, totale. Cioè basta. Punto e basta. Si entra in una scuola, se c'è un problema, e si identificano le persone. Tu chi sei? Ti fermiamo, ti portiamo. Li hanno pestati, gli hanno spaccato le teste. Ma dai, ma io non lo so. Ma come si fa a dire che a discutere anche di una roba del genere? Discuterne già mi fa incazzare. Perché guarda, è tutto un casino, cioè non c'è mai un inquadramento dei problemi. Ma no, perché se tu dici così ti dico tu sei contro la polizia. Ma chi è contro la polizia? Voglio dire, non è ogni volta dobbiamo fare i partigiani o di qua o di là o di qua o di là, ti fa. Cioè, quella roba fu una vergogna, e dire lo rifarei mille volte, ma poi ragazzi, va bene anche la parte buona, dai, su dire che c'è la parte marcia, forse. No, ma certo, ma infatti, ma avanti che non abbiamo tempo, sono già le 6. Bravo. Tempo da perdere. Milan le sta inventando tutte, pur di non parlare quello che scrive oggi a pagina 12 Repubblica. Orca, pagina 12, aspetta. Liguria, indagata la candidata. Ma chi se ne frega? Adesso certo. Ma guarda che ti vengo a prendere. Alluvione, parliamo di disastro colposo. Ecco, di quello che vuoi. E quindi dovrebbe manca l'allerta nonché di omicidio, mica robette così. Indagata la candidata PD. E quindi dovrebbe dimettersi. Sarà contento Toti, sì. Poi tutto anche te, no? Pur di non parlare delle dimissioni del capogruppo PD Speranza. Dopo che la gente crede che io sia del PD, guarda che ci crede. La gente crede a tutto quello che Aurora Lussana dice. Cioè, Aurora Lussana è il verbo qui per i nostri ascoltatori. Vabbè, ma che devo dire della Paita? Sì, la Paita è indagata, è candidata per il PD. Cosa fa? Quindi dovrebbe fare un passo indietro in Liguria, cara Aurora Lussana? Lo deciderà Elio Gaba Lorenzi, tanto decide da tutto lui. Poi tutto per non parlare dell'intervista di Prodi. Ma parlo del Debbio, ma dove l'abbiamo inventata? Dove l'abbiamo trovata, Aurora? La Lussana, la la proponga all'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Patrimonio immateriale. Il patrimonio dell'umanità. Io che sono patrimonio. Ovviamente, perché Paolo Del Debbio sa tutto, ma io che non lo so, io invece no, sono subito su Wikipedia. Elio Gabalo. Elio Gabalo, nato come Sesto Vario Avito Bassiano, regnante col nome di Marco Aurelio Antonino. Ma sì, voleva imporre il culto del sole a Roma e insomma si scontrò un po' col conservatorismo romano, è finito come è finito. Voleva imperatore anche lui romano chiamare Giove e così insomma però... Hai capito però Paolo Del Debbio, dove te l'ha tirata fuori questa? No, Elio Gabalo. Per me si vola troppo alto, cioè io voglio dire al massimo arrivo, non so, alla Boldrini, ecco. Aspetta però, devo l'ultimo minuto, volevo sapere una cosa. Mattarella, Massimo. No, l'ultimo minuto, volevo sapere una cosa da Paolo Del Debbio, ma hai per, caso, hai per caso litigato con il professor Simonelli in TV? Insomma, c'è... Gli ho detto alcune cose, sì. Perché, ma ce l'abbiamo l'audio? No, non ce l'abbiamo l'audio, no, non ce l'abbiamo. Come no? No, non ce l'ho qua, non ce, cioè, e ci sarà. Trovate, non vabbè, adesso manca un minuto, non riusciamo a trovarlo. Ma no, no. La prossima... Chi ha detto Simonelli? Che ti inventi le robe, in pratica. Vengono per fare teatro. Ah, quelli che è in piazza della trasmissione. Ma lei che ne sa? Poi siccome continuavo a dire io presumo di sapere cosa la gente pensa, gli ho detto che è come il mago Telba. Ah, gli hai detto che è come il mago Telba, sì. Vabbè, Aurora Lussana qua, nel ringraziarvi c'è la ricetta del giorno, forza, velocissima, in 10 secondi. No, no. Devo farla per la vestita, non devo mangiare per 2 giorni, ragazzi. Ma tu fai tu cucina e mangiano altri, chi se ne frega. No, niente, digiuno penitenziario. No, non posso, come faccio? Penitenziario. Anche perché l'ho preso per risparmiare una taglia in meno, devo smagrire, ragazzi. È finita. Il 6 giugno si avvicina il D-Day, il matrimonio di Aurora Lussana si avvicina a Cantù e poi sindaco a Cantù, direttamente dall'altare a sindaco. Allora vi ringrazio Aurora Lussana e Paolo Del Debbio, questa sera ovviamente dalla vostra parte alle 20:30 più o meno su Rete 4. Grazie. Se siete ubamiani, forward, avanti. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. 7:19 minuti, siamo qua, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Oggi avremo ospite Vincenzo De Luca, candidato alla regione Campania per il centro-sinistra, e poi torneremo a parlare dopo l'analisi di Gustavo Zagrebelsky, ex presidente della Corte Costituzionale, ieri su Repubblica, che diceva si cercano i pareri dei giuristi per rinviare la decisione di Camera e Senato sui vitalizi agli ex condannati, agli ex parlamentari condannati. E oggi ancora Repubblica torna su questo tema che noi abbiamo affrontato più volte, a dire effettivamente Zagrebelsky ha ragione, si possono togliere in un minuto e non si fa, ma adesso tutti giurano che basta, adesso si fa. Ah, staremo a vedere, dai. È giovedì 16 aprile, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, Draghi, il QE funziona, il quantitative easing, avanti con gli acquisti, questo è il titolo di prima pagina. Poi, la legge elettorale prende ancora spazio perché ieri c'è stata l'ennesima resa dei conti nel PD con Renzi che dice... Non si cambia nulla, pronto alla prova di forza, così il Corriere della Sera, Italicum, prova di forza di Renzi, Repubblica, PD, scontro finale sull'Italicum, Speranza si dimette, è il capogruppo, è Speranza, questo è il titolo, pensate, di prima pagina più importante di Repubblica. Il Fatto Quotidiano, miracolo Italicum, 10 deputati in più. Lo vedremo, c'è un costituzionalista che fa notare che c'è qualche errore nella legge elettorale per cui si rischia di avere 10 eletti in più. La rivolta dei codardi per il giornale, sinistra nella bufera. La minoranza minaccia di far cadere Renzi ma poi si arrende. Il Messaggero, sia l'Italicum, strappo nel PD. La Stampa, Renzi, Italicum, governo in gioco, c'è caos, PD scoppia il caso Liguria. Come vedete, quasi tutti sulla legge elettorale. Il Manifesto, fiducioso, mette la foto di Renzi, ma si gioca sul fatto che potrebbe mettere la fiducia sull'Italicum. Come vedete, la maggior parte dei titoli sono sulla legge elettorale, 102esima settimana decisiva di questa legislatura. Allora, però, tornano e continuano le polemiche sul post su Facebook e le successive interviste del poliziotto Tortosa, che ha preso parte all'irruzione nella Diaz e dice: lo rifarei mille volte. Allora, le novità sono queste. Il capo della polizia Pansa scrive una lettera a Repubblica, pubblicata a pagina 17. Mai più un'altra Diaz, assicura Alessandro Pansa. Caro direttore, ho appreso con stupore e rabbia delle affermazioni in merito ai fatti della scuola Diaz. Una cosa vorrei mettere innanzitutto in chiaro. Né io né i vertici della polizia che ho l'onore di dirigere abbiamo mai coltivato l'intenzione di rimuovere o sminuire la memoria di quella vicenda. Per tale ragione non posso che stigmatizzare il post e nello stesso tempo reagire al comportamento tenuto facendo ricorso alle procedure disciplinari. E poi nella lunga lettera Pansa scrive: stiano certi tutti gli italiani che non ci sarà mai più un'altra Diaz, non potrà più esserci. Io me ne faccio garante non solo perché la polizia è cambiata, ma perché lo devo ai miei stessi poliziotti che mi manifestano la loro aspirazione e che vengono adeguatamente riconosciuti a rappresentanti del valori dell'onore, della realtà, della fedeltà alle leggi e alla Costituzione ai quali quotidianamente ispirano il loro delicato lavoro. Dice anche Pansa: la Polizia di Stato, i reparti mobili in particolare, sono istituzioni che garantiscono ai cittadini la libera manifestazione del pensiero e la polizia è un corpo e un organismo sano, formato da donne e uomini che hanno collocato il rispetto della democrazia e delle leggi in cima alla lista dei valori in nome dei quali ogni giorno mettono in gioco la loro intelligenza, la loro incolumità. Certo, però i provvedimenti ci sono. Intanto scrive il Secolo XIX che Tortosa rischia il licenziamento. Io l'ho detto già da ieri, non deve più mettere la divisa una persona così. E se non avrà il licenziamento, che vi dico? Vi auguro di non incrociarlo mai neanche per un controllo stradale in vita vostra. E incrociate le dita, cari cittadini italiani. E in ogni caso, Tortosa fa un'intervista a Repubblica e sembra tutta un'altra persona, intervistato da Carlo Bonini, si scusa su tutta la linea. Eccolo qua, pagina 16 e 17. Quello che ho scritto su Giuliani, su Carlo Giuliani, non è da uomo e non è da me. Me ne vergogno. Per quel che può servire, chiedo scusa ai suoi genitori e chiedo scusa a mia madre, che a 78 anni ha visto perdere un figlio, mio fratello a 15 anni. Spero mi perdoni da dov'è anche mio padre, che era meccanico dell'ATAC. Mai più si dovrà dire di Giuliani: sì, certo, è morto, ma non so cosa mi sia successo, o forse lo so, ero furioso. E poi sulla Diaz: chi fa violenza su un inerme commette atto di tortura, dunque alla Diaz fu tortura, ma io in 22 anni di polizia non ho mai torturato nessuno. E che giudizio dà di quella notte? Fu uno scempio che fece 159 vittime, i 79 nella scuola che vennero massacrati e gli altri 80 noi del settimo, perfetti capri espiatori di quanto era accaduto. Insomma, fa tutta una serie di scuse, parla, l'ho detto prima, la discussione si è infilata nella logica amico-nemico, poliziotto fascista, antagonista zecca, non serve a niente, ma capisco che dirlo ora può sembrare solo una giustificazione tardiva. Quanto alla terminologia usata nel mio profilo Facebook, onore, gioventù, lealtà, fratellanza, sono termini che accomunano tutte le comunità di uomini uniti da un vincolo di lealtà a dei valori e a un'idea. Vabbè, si scusa su tutta la linea. C'è già un provvedimento però, fa sapere il Fatto Quotidiano, e cioè che la linea dura è già stata approvata nei confronti di Antonio Adornato, che è comandante del reparto mobile ex celere di Cagliari, prima di quello di Senigallia e prima ancora funzionario del reparto romano che fece irruzione alla Diaz. Perché? Adornato ha fatto un like, come si fa su Facebook, cioè mi piace al post di Tortosa. Per questo, fa sapere il Fatto, è già stato dato a lui un avviso di trasferimento da Cagliari. al post del suo ex, per il mi piace al post del suo ex autista. Ecco, era l'autista Tortosa di Adornato, che per primo sperimenta la linea dura del Ministero dell'Interno. Comunque questa vicenda non è ancora finita. Oh, invece di cronaca mi hanno colpito due cose. La prima è questa, guardate, è anche talmente obbrobriosa leggerla, ma sul giornale, anche sul giorno per la verità, ha abusato di 11 bambini, pediatra libero per errore. Paola Fucilieri racconta, pagina 14 del giornale, di un pediatra a Milano, originario di Busto Arsizio per la verità, 55 anni. Chi l'ha conosciuto anche solo superficialmente non esita a definire una persona estremamente infantile, con evidenti carenze di natura affettiva e problemi derivati dall'infanzia. Eppure questo pediatra, 55 anni, che aveva una condanna definitiva a 8 mesi per detenzione di materiale pedopornografico risultante nel 2006, ha esercitato fino all'anno scorso, quando è stato nuovamente arrestato. Ora è accusato di violenza sessuale su un paziente di 12 anni, ma avrebbe molestato altri bambini. Ma per una svista la sua condanna non figurava nel casellario giudiziale. E lui non aveva mai scontato la pena perché gli era stata concessa la sospensione condizionale. L'ordine dei medici, che non sapeva niente della condanna, gli aveva però inflitto un procedimento disciplinare perché in sede civile era emerso che aveva sottoposto ragazzini a ispezioni corporali arbitrarie e non richieste. L'ordine l'aveva convocato e il pediatra non si era mai presentato ed era stato sospeso per 2 mesi. Alla fine è stato arrestato. Questa storia la trovate sul giornale o sul giorno, mentre questa è una vicenda che racconta in maniera drammatica come l'andrangheta agisca. È Goffredo Buccini che racconta la storia del codice d'onore del figlio matricida a difesa del clan. È una vicenda incredibile, è quella che, lo dico subito, fa tenere le mani ben strette sul volante se siete alla guida. Sbagliamo noi, scrive Goffredo Buccini a pagina 21 del Corriere. Sbagliamo noi a stupirci, anche se un figlio che ammazza la mamma per onore, mentre lei gli chiede perdono in ginocchio, è storia che lascia senza parole nel resto del mondo. Anche se perfino un magistrato esperto come il procuratore di Reggio Calabria fa fatica a raccontarla ai cronisti, tanto è inimmaginabile. Invece a Rosarno, terra calabrese dove troppo spesso le famiglie coincidono con le 'ndrine, perfino il diritto naturale è rovesciato e tutti lo sanno. Doveva saperlo anche Franca, quando 20 anni fa, brava mamma di 'ndrangheta, cantava al suo piccolo Francesco la ninna nanna del Malandrineddu. O quando gli raccontava come una favola il codice del sangue del clan, perché a Rosarno clan e cognomi pesano. Franca era una Bellocco, nipote di Gregorio, capo dei capi. E per tradire suo marito, Salvatore Barone, sorvegliato speciale sul lago di Garda, si era scelto come amante Domenico, un cacciola, altro cognome pesante nella piana, parente di Maria Concetta, che essendo testimone di giustizia fu costretta dalla famiglia a bere acido muriatico dopo settimane di botte e angherie. Qui i figli sono spesso arma di ricatto per piegare madri coraggiose, successe a Lea Garofalo, che per amore della piccola Denise finì per consegnarsi ai suoi carnefici. Ma talvolta i figli sono essi stessi carnefici, perché il canone delle 'ndrine prevede che il disonore vada lavato dal parente più prossimo. Sicché, nell'estate del 2013, deve essere stato un lampo per Francesco, ventenne, decidere cosa fare, dopo aver scoperto che sua madre buttava la vergogna in faccia alla famiglia con quella passione clandestina impossibile. Conosciamo l'orrore di quell'alba del 18 agosto grazie a un vigile urbano che abitava lì accanto, ha testimoniato, ora è sotto protezione. A casa di Franca Bellocco arriva un comando, Francesco è dentro, con lei. Si sente la voce di donna disperata che invoca «Perdonatemi!». Poi il figlio prende la macchina, un complice accanto, la madre è tramortita, forse già morta, nel bagagliaio. E di Franca Bellocco e Domenico Cacciola non si troveranno più i corpi. Francesco ora è stato arrestato. Spesso diciamo che solo le donne potranno battere l'andrangheta, schiave al tempo stesso vestali della società mafiosa, sono loro a trasmetterne i valori. Liberandosi rovesceranno le 'ndrine. Ma togliere l'odio dal latte dei bambini è solo facile a dirsi. Franca si è levata il suo assassino, credendo fosse amore. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il giornalista di Radio 24. Eccolo qua, sono un giornalista effettivamente. Allora, pensate voi se mai il governo dovesse cadere per la questione della legge elettorale alla 102esima settimana decisiva? Per la riforma elettorale di questa legislatura, oltre che 102esima decisiva per l'abolizione delle province, ovviamente, ma non succederà, non credo che succeda. Però si è litigato ancora molto ieri, puntata numero 7422 della scissione della resa dei conti all'interno del PD. Poi però c'è stato il passo indietro della minoranza PD, come titola pagina 2 del Corriere. Sì, certo, il capogruppo Speranza ha rimesso il mandato, si è dimesso, ma Renzi ha tenuto sempre quell'atteggiamento, come dire, sfrontato, cioè non molla di un centimetro, non sarà un voto all'Armageddon, ha iniziato così la seduta ieri all'interno del partito, ma poi ha anche detto che, citando il libro della giungla, fuori di qui ci sono tanti tabacchi. Tabacqui, come si legge, non lo so, tabacchi, tabacqui, comunque gli sciacalli, no, lo sciacallo tabacchi. E allora, che dire, ci sarà questo Italicum? Non si sa. Intanto si litiga, ma come scrive anche Repubblica, Renzi tira dritto e giura in un retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 3 il Corriere della Sera che la minaccia di salire da Mattarella e comunque la minaccia di far cadere il governo se non passa l'Italicum è una minaccia concreta. Certo, sull'Italicum forse la notizia più interessante la troviamo oggi sul Fatto Quotidiano, a pagina 3, è il titolo di prima pagina per la verità, è un titolo che mi ha molto incuriosito, Miracolo Italicum 10 deputati in più. Gianluca Roselli spiega il tutto, l'arcano a pagina 3. C'è un costituzionalista, Lorenzo Spadaccini, che insegna diritto costituzionale a Brescia e che dice la legge elettorale è un tale pasticcio che alla Camera potrebbero essere eletti 10 deputati in più, 640 al posto dei 630 previsti dalla Costituzione. Perché? Perché salta fuori questa falla, è stato coniugato male il rapporto tra i seggi eletti in Val d'Aosta e Trentino Alto Adige e quelli nel resto d'Italia, tanto che a seconda del numero dei voti da quelle due regioni a statuto speciale potrebbero essere eletti da 2 a 10 parlamentari in più rispetto a quelli previsti dalla Costituzione. Non chiedetemi tecnicismi, perché i tecnicismi e le tecnicalità delle leggi elettorali sono complessissime, però il dato di fatto è questo, l'allarme è stata scritta male e c'è il rischio addirittura che vengano eletti 10 deputati in più di quelli previsti dalla Costituzione. Vabbè, diciamo che forse la notizia politica che più fa discutere all'interno del Partito Democratico e sui giornali è invece l'indagine nei confronti di Raffaella Paita, che è la candidata del PD alla regione Liguria. Paita indagata, caos democratici in Liguria, pagina 5 del Corriere. La Procura di Genova ha iscritto Paita, che era assessore alla protezione civile nella precedente giunta Burlando, perché i reati sono di concorso in omicidio colposo, disastro colposo, omissione per il mancato allarme nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 2014, quando il Bisagno alle 22:15 minuti uscì dagli argini dopo ore di piogge torrenziali travolgendo l'infermiere in pensione Antonio Campanella, uccidendolo. Per quella piena del Bisagno dunque ora arriva l'iscrizione tra gli indagati. Il Secolo XIX è il quotidiano che comprensibilmente ovviamente dedica più spazio a questa notizia. Paita indagata, fiducia dal PD, racconta con Guido Filippi e Vincenzo Galiano questo retroscena. Non ho fatto niente, questa è la reazione di Raffaella Paita. Io non ho responsabilità, ma se il problema sono io, mollo tutto. Ecco, secondo il Secolo, la reazione di Raffaella Paita è stata questa: telefonare a Renzi e dire mollo tutto. E Renzi le risponde: vai avanti, devi andare avanti. Ho agito correttamente, ma sono a disposizione del PD. Questo è il titolo di pagina 3. Lei pronta a lasciare, ma difesa anche da Burlando, il governatore uscente, che viene definito come colui che ha messo la sua delfina, Raffaella Paita, il premier in realtà non ritira la fiducia alla candidata ligure. Questo Renzi, che anzi dice il secolo XIX ha confermato domenica sarà a Sanremo e quindi conferma di volere, come dire, mantenere anche un appoggio anche visivo, concreto, fisico vicino a Raffaella Paita, mentre la stampa racconta con Francesca Schianchi che con un'altra persona che ha guai con la giustizia ed è candidato per il PD, vale a dire Vincenzo De Luca, che sarà nostro ospite alle 8:15, ecco, in questo caso, racconta la stampa, Renzi invece potrebbe scegliere di non farsi vedere troppo con De Luca. Questo è il titolo di pagina 5. Vabbè, questioni politiche anche per Berlusconi alle prese con le liste, il caos, i sondaggi che danno Forza Italia sotto il 10%, sarebbe un disastro elettorale, questo alle regionali. Berlusconi che adesso ha il problema anche della Toscana, di trovare un candidato in Toscana, e Berlusconi che ha il problema di Dudù, ha il problema di Dudina. È incredibile, ma è così. Ieri mi è sfuggito questo editoriale di Ugo Magri sulla stampa, nel quale si buttava lì come ultima chiosa il fatto che Berlusconi non sopportasse più Dudù e Dudina. Apriti cielo. Berlusconi ha sentito il dovere di intervenire ufficialmente con una nota. Berlusconi furioso ridiscende in campo, ma per amore di Dudù. Titolo e mezza pagina sulla stampa, Mattia Feltri. Smentisco con la massima fermezza. Nessun cedimento e nervosismo, non c'è gioia per gli occhi più splendente di Dudù e Dudina. Anzi, l'ex ministro Brambilla fa sapere che si è aggiunta a Dudù e Dudina una terza adorabile bestiola che di nome fa Harley. Questo mezza pagina sulla stampa, ma mezza pagina su Repubblica, Silvio alle prese con il caso Dudù. E mezza pagina su Libero del vice direttore Franco Bechis, Silvio sbotta, non toccatemi Dudù. L'ira di Berlusconi per le indiscrezioni sul cane della Pascale, non è vero che non lo sopporto più. Oh, la vera questione politica, che davvero rischia di essere un po' sconcertante ma anche emblematica, è questa. Ricordate quando 10 giorni fa abbiamo invitato Silvio Alessi, che aveva vinto le primarie del PD ad Agrigento e che però aveva ammesso qui a 24 mattino che in passato aveva votato Berlusconi qualche volta, e infatti il PD l'ha cassato, ha detto basta, va rifatte le primarie ad Agrigento. Sapete ora che succede? È probabile, racconta Repubblica, che Silvio Alessi si candiderà sindaco per Forza Italia. Cioè, Agrigento, Berlusconi fa sapere che sta valutando seriamente l'ipotesi di sostenere Silvio Alessi, candidato sindaco per Forza Italia ad Agrigento, e quindi potremmo avere candidato sindaco di Forza Italia uno che ha vinto le primarie del PD un mese fa. Succede questo, Mauro Meazza, succede questo nella politica italiana. Buongiorno, Buongiorno Alessandro, mi sembra un po' tutta una cosa da derby politico. Esatto. Uno scambio, non è che anche noi però potremmo scambiarci di giocatori, le nostre due squadre in vista dell'evento di domenica, bah, insomma evento, diciamo incontro, sì, con la classifica che abbiamo dell'incontro di domenica, potremmo decidere qualche cambio di casacca in corsa, perché no? Volevo dirti, hai scaricato il tuo 7:30 precompilato? Tutto fatto. Oh, è andato tutto bene? No, in realtà non l'ho fatto. Allora, non cominciamo con queste cose che diciamo delle bugie alla nazione tutta. Siamo sempre disponibili naturalmente ad aiutarti a scaricare, ma siamo disponibili anche in rete. Noi ieri con il Sole 24 Ore abbiamo presentato una guida al 7:30 precompilato, da come chiedere il PIN, a come comportarsi con questi documenti. Oggi, se per caso ve la siete perduta ieri con il Sole 24 Ore, è disponibile comunque sul sito internet, il nostro sito www.ilsole24ore.com/, che sarebbe quella sbarretta, hai presente, guide, e lì dentro c'è il 7:30 precompilato. Già che parlo di internet, scusa, hai visto, c'è un pochino di frizione tra l'Unione Europea e Google. Sì, sì. Una discussioncella in corso. Volevo dirti, c'è anche una discussioncella a Milano, e ne riferiamo infatti nelle pagine dove parliamo di Google, per una transazione possibile su, con il fisco, sugli 800 milioni euro, 2 euro più, 2 euro meno, verrebbe da dire. Comunque, se trovi appunto sulle pagine di, del Sole 24 Ore di oggi questa vicenda, vedi che, quali sono le grandezze in, in corso. Oh, poi vorrei scusarmi perché non abbiamo parlato in queste mattine dell'agitazione degli addetti del turismo. Ieri c'è stato uno sciopero, ne riferiamo puntualmente sulle pagine del, del Sole 24 Ore di oggi, dedicate al lavoro come sempre. Oh, e molte altre cose ti vorrei dire, tra cui c'è un segnale di ripresa per i finanziamenti alle imprese, tra dicembre e febbraio sono cresciuti del 7,6%, una buona notizia, e ne parliamo in finanza, ma chiuderei con una, un ammonimento in qualche modo. Vai nella sezione norme e tributi, cosa che sempre dovresti fare anche per tua cultura generale, caro Alessandro. E nelle, proprio nelle ultime due pagine, due sentenze, due decisioni importanti, l'una della Cassazione penale, facciamo un po' qui radio legali, l'attenuità del fatto, attenzione, può essere applicata anche ai procedimenti già in corso. Non è importante che tu ed io capiamo, come però, sempre. In realtà incredibilmente ho capito, guarda. Ed è importante. Questo mi rallegra molto. Poi me lo spieghi allora più tardi. Dai. Va bene, Sicilia. E poi Tribunale di Roma, il padre che era assente, non pagava l'assegno di mantenimento, non si occupava dell'educazione del figlio, bene, questo padre assente dovrà risarcire il figlio, un danno endofamiliare, così si chiama, ma lo spieghiamo tutto su norme e tributi. E infine, siccome ieri non ti è piaciuta la mia modalità di lancio, allora adesso chiedo a Peter di farmi aiutare da un amico. Prego. Alessandro Milan, il Pippo Inzaghi dell'informazione. Spero come calciatore, soprattutto. Allora, che dire, il tema dell'immigrazione è un tema ancora molto molto presente sui giornali, d'altronde continuano a sbarcare migranti e continua il muro delle grandi regioni sull'accoglienza dei profughi. Questo è il titolo di pagina 14 del Corriere della Sera, racconta Fiorenza Sarzanini che maglia nera vanno a Lombardia, Veneto e Toscana. La Valle d'Aosta invece accoglie una persona, pensate, il record è certamente quello della Val d'Aosta, a fronte di una richiesta di 50 posti ha accettato di ospitare soltanto una persona. In realtà sono molte le regioni che fanno muro e rifiutano categoricamente di accogliere migranti. In 4 giorni, ricorda il Corriere, sono arrivate 10.000 persone, le strutture ormai al collasso, dovendo assistere circa 70.000 stranieri. Tra l'altro ieri si è litigato molto alla Camera, qualche audio l'abbiamo fatto sentire alle 6.30, perché è stata istituita con legge alla Camera il 3 ottobre come giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Ogni 3 ottobre sarà così in Italia. Si commemora il 3 ottobre il naufragio di Lampedusa, in cui perse la vita 368 persone. Libero è molto duro nel titolo: la sinistra si inventa la festa del migrante. Il 3 ottobre diventerà giornata dedicata alla memoria dei clandestini morti nel Mediterraneo, e su questo c'è stata una seduta alla Camera pirotecnica, per usare un eufemismo. E poi però mi ha colpito sul tema dell'immigrazione la proposta dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, Francesca Danese. Udite udite, ha proposto questo: i richiedenti asilo usiamoli come volontari per il giubileo, sanno molte lingue e potrebbero rendersi utili così. Come dire, ognuno poi può pensarla come vuole. Pier Francesco Borgia sul giornale: i richiedenti asilo usati come volontari per il giubileo, questa la trovata del Comune di Roma, i rifugiati potrebbero offrirsi come volontari. Ovviamente subito il fuoco di polemiche, l'opposizione che dice pensi ai romani invece che pensare alle persone che sono arrivate. Questo anche su Libero: vogliono affidare il giubileo ai profughi. Questo addirittura è il titolo di prima pagina di Libero. Mettono il giubileo in mano ai clandestini. Vabbè, insomma, poi c'è qualche esagerazione nel titolo, però la proposta fa molto discutere. Come diceva prima Mauro Meazza, prima del Ligabue, ma me l'avete fatta proprio alle spalle questa, io non sapevo niente, tu e Peter Bescapè. Bravo Peter, traditore. Allora, vi ricordo che sul Sole 24 ci sono due pagine molto molto interessanti da leggere sul tema Europa contro Google, perché l'accusa dell'Europa è una lettera di obiezione a Google, società americana accusata di abuso di posizione dominante nel campo dei motori di ricerca su internet. Lede la concorrenza, questo in pratica. Come scrive Beda Romano, è l'accusa. Sono due pagine molto molto corpose, ma spiegano molto bene la questione. Pagina 6 e 7, Marco Valsania invece a pagina 6 racconta lo scontro miliardario tra Europa e Stati Uniti. È solo l'ultimo caso, 2 miliardi di multa a Microsoft, oltre una Intel, forse arriveranno 6 miliardi a Google. Insomma, i big americani sono sotto attacco da parte dell'Europa. E c'è anche un'intervista che Repubblica fa a Mario Monti, in qualità non di ex premier ma quanto di ex commissario europeo. Federico Fubini intervista Mario Monti, primo commissario antitrust europeo a condurre una battaglia contro un colosso americano. Mario Monti dice: giusto frenare gli abusi per tutelare i consumatori, ma l'Europa dei populismi rende tutto più difficile. Vabbè, siamo in conclusione? Sì, perché è entrato Lorenzo Nespoli per filmarmi, perché siamo in diretta su Periscope. Incredibile! Seguiteci anche su Periscope, che io non ho ben capito che cosa sia, ma so che è una cosa che esiste e noi ci siamo. Allora, il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi è una pagina intera dedicata a Madonna. Sapete che c'è un video di Madonna che bacia un rapper ventenne e questi, dopo il bacio intenso di Madonna in bocca, fa un gesto, una smorfia di disgusto. È un video virale che sta girando. Il Corriere della Sera con Matteo Persivale dedica una pagina a questo. I baci sgraditi di Madonna, icona della bellezza femminile che un tempo tutti volevano slinguarsi e adesso nessuno si vuole slinguare più. Una pagina del Corriere su questo. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:20 minuti e ieri c'è stata l'assemblea del PD a sera. Renzi tira dritto in questa assemblea in cui è andata in scena la puntata numero 6854 della resa dei conti sulla legge elettorale. Ovviamente la minoranza del partito che minaccia di fare opposizione, di fare ferro e fuoco, poi la minoranza del PD che abbandona l'assemblea, e Renzi che, dopo aver citato il libro della giungla dicendo che ci sono troppi sciacalli e forse avere anche adombrato il rischio di caduta del governo se non passa l'Italicum così com'è, va avanti e non guarda in faccia nessuno. Vorrei partire da qui per fare una considerazione generale e chiedere un parere a un interlocutore che non era ieri in assemblea, non mi risulta fosse in assemblea a Roma, è impegnato nella campagna elettorale alle regionali in Campania, ma è una voce sempre molto attenta a quello che succede all'interno del partito, il Partito Democratico. Si tratta di Vincenzo De Luca, che saluto. Buongiorno De Luca. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, partiamo da qui. Fa bene Renzi a tirar dritto sulla legge elettorale? A non guardare in faccia nessuno? Fa benissimo. Credo sia arrivato il tempo di decidere. Credo sia arrivato il tempo di applicare una decisione voluta dalla maggioranza del gruppo parlamentare e degli organi di partito. Mm-hmm. Io non sono fra quelli che ritengono perfetta questa legge elettorale. Ci sono, sicuramente ci sono degli aspetti delicati C'è sicuramente da trovare un equilibrio costituzionale con grande attenzione quando si passerà alla modifica poi di altri aspetti della Costituzione, ma francamente continuare questa telenovela è insostenibile. È insostenibile. Quindi fa bene Renzi ad andare avanti, a decidere. Ma anche dicendo nel caso cade il governo, vado dal Presidente della Repubblica e... Beh, insomma, mi pare evidente che c'è un legame anche con questo. Il governo ha una sua ragione di esistere, legata al rinnovamento profondo dell'Italia, delle leggi elettorali, alla modernizzazione generale del paese. Se questo percorso viene ostacolato, è evidente che si pone un problema. Non ha senso tenere in piedi un governo che non determini una svolta profonda nel paese. Allora De Luca, prima di parlare di lei e della campagna, le faccio però fare un commento su un'altra regione, perché sa, notizia di ieri, la Liguria, candidata del PD, Raffaella Paita, è indagata per concorso in omicidio colposo, disastro colposo, omissione, la vicenda dell'esondazione del Bisagno l'ottobre 2014. Chiedo a lei, perché si sa anche lei è in una situazione giudiziaria, ha una condanna in primo grado per altre vicende, abuso d'ufficio, sa che la Paita ha pensato di fare un passo indietro? Così racconta nei giornali? Ha fatto male ad avere questi pensieri perversi, a mio parere deve andare avanti. Già le è andata bene che non l'hanno accusata dell'incendio di Roma. Noi siamo un paese disquinternati, c'è una norma della Costituzione che viene puntualmente ignorata da tutti quanti, e cioè un cittadino innocente fino a parere definitivo del magistrato, però parliamo tutti quanti a prescindere. E basta un soffio, un avviso di garanzia per determinare la vita o la morte di un essere umano, o un percorso di vita o di lavoro di un essere umano. È una cosa indegna di un paese civile. Quindi vada avanti. Vada avanti tranquillamente, se poi sbaglierà sia lapidata, ma adesso sia un cittadino normale come prevede la Costituzione. Mi è appena capitato di ascoltare per Rai News 24, per dirle a che livelli di superficialità siamo in Italia, una informazione che dava Roberto Vicaretti nella rassegna stampa e mi riguardava: la legge Severino che prevede l'immediata decadenza. Falso due volte, perché per la regione non c'è nessuna decadenza, ma neanche per i sindaci, ma tutt'al più la sospensione. Appunto. Quindi si rimane tranquillamente in carica. E poi per la regione non c'è niente di immediato, perché la procedura non prevede l'intervento del prefetto, ma prevede la comunicazione al Presidente del Consiglio, che poi consulta il Ministro dell'Interno, il Ministro per le Regioni, che è tutt'altra procedura. Però lei, De Luca, non si pone nella situazione di dire, dovesse appunto vincere, c'è la probabile sospensione, anche se con questa procedura un po' complicata, non si pone nell'ottica dei cittadini campani che rischiano di rimanere impelagati con una vicenda che riguarda lei e la Presidenza, e c'è una regione da governare, no? I cittadini campani sono estremamente intelligenti e hanno già fatto la loro scelta, perché per i cittadini intelligenti l'obiettivo è quello di togliere di mezzo le coballe, di ripulire la terra dai fuochi, di non vedere la gente morire di cancro, non di seguire dibattiti da salotti televisivi. In ogni caso, per quello che mi riguarda, la pronuncia già c'è stata dal TAR e già c'è stata la sospensiva. Quindi siamo in un dibattito pubblico che si sta sviluppando, come 9 volte su 10 capita in Italia, assolutamente a capoccia, sul sentito dire, sulle scemenze. Infine, le voglio ribadire che io non solo non ho imbarazzo, ma voglio che su questo caso si accendano i riflettori nazionali. Primo, perché non è tollerabile che in un paese ci sia una legge che vale per i sindaci e gli amministratori pubblici e non vale per i deputati, i senatori e i ministri. È una vergogna assoluta. E secondo, perché bisogna stabilire, ovviamente, che c'è un diritto ad essere considerati innocenti fino all'ultimo grado di giudizio. Per i deputati vale, cioè Berlusconi è decaduto per la legge Severino. Berlusconi è decaduto per altre regioni. Innanzitutto lì c'è una sentenza definitiva per reato fiscale. E poi c'è un problema che ha sollevato, come è giusto che sia da parte sua, la Corte europea. Ma lo faccia. Ma Berlusconi ha una condanna definitiva e non è abuso d'ufficio. Non so se c'è. Il reato è diverso. Mi rendo conto che bisogna ovviamente spiegare nel merito le questioni, e questo è faticoso. È molto più comodo sviluppare un dibattito pubblico, le ripeto, assolutamente a capoccia. Nessuno in queste settimane ha sollevato la questione scandalosa vera. Cioè c'è una legge che vale per i sindaci, gli amministratori, e non vale per i ministri, i deputati e i senatori. Questo non scandalizza nessuno. Cioè, se io fossi stato ancora nel governo, stavo tranquillo. È una cosa incredibile. Però le chiedo, oggi la stampa, nel raccontare la vicenda della Paita e dicendo che Renzi la sostiene, racconta invece sempre la stampa che Renzi invece non vuole farsi vedere molto al suo fianco. Per esempio, sabato sarà a Pompei, ma non è previsto un incontro tra voi due. Ci vuole chiarire, intanto lo incontrerà a Pompei? Io, vede, sono sempre commosso da queste informazioni riservate che vengono lanciate per aria. Io non so chi è che abbia questa intimità con Renzi. Si dice previsto o non è previsto. Le posso garantire lei che se viene a Pompei ci andiamo a prendere un ricco caffè di quelli buoni, ecco, quindi quelli che facciamo dalle nostre parti, tranquilli, sereni, rilassati, e andiamo avanti per vincere in questa regione tormentata che, come sapete, è l'ultima d'Europa, insieme con una della Romania e una della Bulgaria, altro che Salotti e pettegolezzi. Non crede però che, questo almeno sosteneva ieri il Corriere della Sera, il fatto di aver avuto una tolleranza con lei, cioè una persona che ha una condanna in primo grado e candidata, ha portato alla distruzione del PD campano, cioè tutte queste vicende di occupazioni, ognuno che fa un po' quello che vuole. È un'altra immensa idiozia, perché non c'entra assolutamente niente. Primo, perché sono portatore nella mia esperienza amministrativa di un modello che è un esempio nazionale di rigore, di moralità e di trasparenza, e sfido chiunque a un dibattito nel merito. Secondo, perché questo argomento che propone Marco De Marco, che pure dovrebbe conoscere la Campania, è assolutamente scriteriato, squinternato. Che c'entra l'abuso d'ufficio di 8 anni fa per un reato linguistico? Lo ricordo sempre. Sì. La mia condanna è per aver utilizzato l'espressione project manager anziché coordinatore di un gruppo di lavoro. C'entra che il due pesi, c'entra il due vicende di Ercolano, Giuliano. C'entrerebbe il due pesi e due misure, cioè una persona che ha una condanna in primo grado gli si permette di fare le primarie e di candidarsi, e quindi uno che è indagato dice allora anch'io. No, dice male, intanto perché si ragiona sul merito dell'accusa. Un conto è se sei indagato o condannato perché non hai pagato il canone televisivo, un altro conto è se sei indagato, anche non condannato, per associazione a delinquere. Non so se è chiaro, ma è tanto difficile capire che le cose vanno valutate nel merito. Dopodiché io sono per la presunzione di innocenza per tutti. Si valuti in sede politica l'opportunità o meno di alcune candidature. Perché mi rendo conto ovviamente che se l'ipotesi di reato è associazione camorristica, anche se non sei condannato, per un principio di prudenza conviene fare un passo indietro. Se l'accusa di reato o la stessa condanna è perché non hai pagato la multa, e beh, vai avanti, perché non si può morire in questo paese. Senta, allora, vede, nessun imbarazzo da parte mia, facciamo una finita con questa strategia della confusione. Questo lei l'ha detto varie volte. Si accendano i riflettori su queste vicende, perché lì bisogna capire com'è l'Italia reale, perché noi abbiamo questa situazione. Chi fa dibattiti nei salotti e chi quotidianamente alle prese con il calvario della trasformazione urbana, che è un calvario in Italia. Ci vogliono atti di eroismo per cambiare questo paese. Mi dica, De Luca, perché lei ha lanciato l'idea del crowdfunding, che per chi non lo sapesse vuol dire cercare, come dire, sottoscrizione popolare di soldi, nei giorni in cui si parla di come i partiti si finanziano, delle fondazioni. Lei per esempio ha qualche fondazione che raccoglie soldi? Non ho nessuna fondazione. No. Ecco, che cos'è questa idea del crowdfunding? È quella di chiedere ai cittadini normali di dare una mano per sostenere la campagna elettorale. E quanto pensa di raccogliere? I cittadini in questo momento, ha visto, col 2 per 1000 non danno manco un euro alla politica, non credo. Spero moltissimo, spero di avere un trattamento un po' migliore. D'altra parte sono in una regione nella quale bisogna stare attenti a fare gli accordi sotto banco prima delle campagne elettorali, perché capita che se fai accordi con la camorra prima, poi devi pagare le cambiali. Io non voglio pagare nessuna cambiale a nessuno e voglio rimanere un uomo libero, dunque chiedo il sostegno ai cittadini normali. Ma se si è posto un limite di denaro, cioè c'è un'idea di quanto potrà raccogliere? Non siamo neanche partiti e vuole porre il limite, non sappiamo neanche se mi arrivano 10 euro. Mandate, siate generosi. Se volete finanziare De Luca. E chiedo... sarà una buona raccolta, le offrirò un pranzo. Va bene, la ringrazio. Le chiedo due cose ancora. La prima è questa: il caso Ischia. Lei è stato. Il caso? Ischia, il caso Ischia, CPL Concordia, eccetera. È vero che è passato un po' di tempo, ma la vicenda D'Alema, lei come la inquadra? Ma perché ha detto che quel vino deve essere una zozzeria? Che vuol dire? No, beh, voleva essere una battuta per dire che in quella vicenda a me la cosa più grave sembrava l'acquisto di un vino fuori regione anziché un Agnani con Taurasi nostro che è splendido. Volevo fare una battutaccia. Ah, vabbè, ma non ha assaggiato il vino? Ripeto, in questo paese in cui il dibattito pubblico avviene a capoccia 9 volte su 10 è diventata una polemica. Volevo sfottere D'Alema, siccome lui è orgoglioso del suo vino, dice che è sempre al vertice mondiale, ho detto che probabilmente è una zozzeria. Poi ho visto invece che si è avvalso della competenza di enologi di grande valore, quindi probabilmente sarà un ottimo vino. Rimane il fatto che se vengono in Campania e che vadano a comprare Aglianico e Taurasi vino campano, mi sembra giusto. Il vino Italia, allora, per concludere, le faccio sentire a De Luca, faccio sentire De Luca, nel senso che lei qualche giorno fa ha detto questo riguardo al fatto che lei deve andare avanti. Se siete ubamiani, forward, avanti. Avanti. Sa che domani Renzi, sa domani da chi va Renzi? Da Obama, alla Casa Bianca. Non parli di cose grandi a un piccolo artigiano della politica. Vabbè, che vuole che dica. Però sabato a Pompei, caffè Renzi De Luca. Sabato a Pompei, se verrà il presidente, ci pigliamo un caffè. Non credo che avrà tempo per fermarsi, se no ci andavamo a fare anche un pranzo l'auto alla salute dei discussori di questo paese. Vabbè, la ringrazio. Buona giornata. Grazie a lei, Vincenzo De Luca, che è candidato alla Regione Campania per il Partito Democratico. Noi ci fermiamo e dopo la pubblicità torneremo sulla vicenda dei vitalizi ai condannati. Ieri ho letto e me lo sono incorniciato qui Gustavo Zagrebelsky su Repubblica, ex presidente della Corte Costituzionale, che in sostanza ha detto: è tutto chiaro la situazione, è tutto chiaro, si potrebbe togliere il vitalizio ai deputati e ai senatori condannati in 448. Ma che cosa si è fatto alla Camera e al Senato? Si è chiesto il parere a 8 giuristi, e quando si chiede il parere ai giuristi e lo scrive un giurista, il giurista giustifica tutto: uno ha detto che si può, uno che non si può, uno che sì, uno che no. E noi giuristi ci stiamo facendo una brutta figura, e aggiungo io anche alla Camera e al Senato. Avremo uno degli 8 estensori di questi pareri con noi tra poco. Siamo qui, cari ascoltatori, ancora bentrovati da Alessandro Milan. Sono le 8:39 minuti. Allora, vogliamo tornare su un tema che abbiamo affrontato più volte in questi mesi, e cioè i vitalizi a deputati e senatori che hanno subito una condanna. Ieri io mi sono letteralmente l'ho letto in rassegna stampa e ho incorniciato il pezzo di Gustavo Zagrebelsky, l'articolo pubblicato dall'ex presidente della Corte Costituzionale, Zagrebelsky, che ha scritto su Repubblica: sui vitalizi ai condannati la politica cerca solo l'alibi dei giuristi per non dover decidere. Perché? Perché il caso dei parlamentari decaduti che continuano a percepire il vitalizio e lo sconcerto dell'opinione pubblica affrontato questi temi, il professor Zagrebelsky a dire che se si chiede un parere a un giurista, e al Senato e alla Camera hanno chiesto parere a 8 giuristi, c'è la giustificazione un po' di tutto, ed è quasi una scusa per non dover decidere ora la politica. Dopo questo articolo di Zagrebelsky, oggi sempre su Repubblica dice: sì, ha ragione, effettivamente possiamo farlo, e fatelo, mi verrebbe da dire. Allora, io voglio parlarne con un professore emerito di diritto costituzionale alla Sapienza, è uno dei giuristi ai quali il Senato ha chiesto un parere. Si tratta del professor Alessandro Pace. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, intanto ci aiuti a capire, perché sui giornali venivano dati dei pareri di chi ha detto, in sostanza, in estrema sintesi, si possono togliere, chi ha detto non si possono togliere, chi ha detto si possono togliere ma attraverso una legge ordinaria. Categoria di quelli che si dice togliere. Si possono togliere, cioè da domani, sì. Da domani. Perché si possono togliere da domani? Perché vede, questa delibera che deve essere ancora votata si collega alla legge Severino. La legge Severino richiede che per continuare il mandato, cioè sia per essere eletti sia per continuare il mandato, non ci deve essere un requisito negativo, vale a dire l'indegnità morale che rileva nella commissione di un reato per il quale sia stata emanata una sentenza definitiva. Sì. Allora, con la Severino, a seguito, in conseguenza della presenza di indegnità morale conclamata da una sentenza, prevede la decadenza. Mm-hmm. E questo delibera, nella stessa linea, prevede che coloro che sono stati decaduti non debbono continuare a godere più del vitalizio. Quindi è una cosa estremamente lineare. È semplice. Ma questo vale anche per il passato, professore, perché la legge Severino... Lasciamo perdere il passato. Lì hanno fatto un imbroglio, una confusione incredibile. Ci sono già due sentenze della Corte Costituzionale, la 118 del 94 e la 132 del 2001, che dicono che non c'è affatto irretroattività. Perché? Perché questo viene fuori dal, questo argomento viene dall'articolo, fuori dall'articolo 48,4 della Costituzione. Sì. Che dice che i deputati per ora devono avere indegnità morale. Allora, che cosa fa la legge Severino? Collega questa decadenza ad un fatto che implica l'indegnità morale nel momento in cui c'è, basta. C'è il punto e basta. Ma allora lei è d'accordo con il professor Zagrebelsky? C'è una decisione politica. Infatti lasciamo perdere Gustavo, ci siamo parlato e mi ha detto sono d'accordo col tuo parere. Questo non lo sapevo, quindi abbiamo chiamato la persona giusta. Perché io gli ho scritto, gli ho detto: Gustavo, ma l'hai letto il mio? Sì, non ci sono differenze. Allora, la seconda cosa che bisogna tenere presente, perché alcuni colleghi hanno sollevato che c'è bisogno di una legge, eccetera, eccetera, bisogna chiarire questo punto. Non c'è bisogno di una legge, perché qui non si tratta di indegnità di cui l'articolo 69 della Costituzione, che è, diciamo così, il mensile dei deputati e dei parlamentari, ma questo è un trattamento vitalizio, una pensione che è stata istituita con delibere della Camera e delibere Perfetto. Del Senato. Quindi non è una pensione, non allora, è paragonabile a una pensione vera e propria. No, e quindi così come loro hanno, come Camera e Senato hanno previsto questi trattamenti vitalizi, altrettanto lo possono revocare con una condizione, no? Come, che però tutto quello che è stato versato finora rimanga, debba essere restituito. Deve essere restituito quanto hanno i deputati e i senatori hanno versato a titolo di contributo. Sì, deve essere restituito, cioè sì, perché quella parte, diciamo, siccome è una sorta di esatto. Perché se no il vitalizio si basa su un accantonamento dello stipendio, quindi certo, dobbiamo dare, in realtà non glielo diamo più, però dobbiamo restituire quanto loro hanno versato a Camera e Senato. Esatto, perché dove venivano queste? Venivano dalla indennità. Cioè venivano prelevato da una parte della indennità una parte per il trattamento vitalizio. Quindi, professor Pace, è molto chiara, la posizione è chiarissima, che è quella che ieri Zagrebelsky ha spiegato, come ci ha detto, e che ha scritto a Repubblica. A questo punto, oggi, lei non avrà letto i giornali, no. I politici tutti dicono il questore Fontanelli, è vero, ha ragione Zagrebelsky, Grasso, il presidente Grasso dice è vero e non serve una legge che, diciamolo chiaramente... No, non c'è bisogno. Ecco, diciamolo chiaramente, una legge farebbe perdere ulteriore tempo perché l'iter parlamentare. Ma non c'è parlamentare. Bisogno, ma perché ci starebbe. Ma perché non si fa? Cioè, lo so che non lo dovrei chiedere a lei, allora, perché non si fa? Perché si vuole che Berlusconi o altri decaduti, nonostante siano well off, come si dice, non perdano anche questa fonte di reddito. Ma è una piccineria, è un contratto. Il problema è se la Severino è legittima o non legittima. Se non fosse legittima, allora, la Severino ce ne cadrebbe anche questo discorso. Ma siccome è legittima... Siccome, no. No, ma tra l'altro ci ha anche molto colpito. Qui abbiamo raccontato la vicenda di Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia, il cui presidente dell'ARS, dell'Assemblea regionale, Ardizzone, al quale Ardizzone ha fatto sospendere il vitalizio chiedendo un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, che in pratica, con le motivazioni che ci sta dicendo lei, ha detto potete farlo da domani, e lui lo ha fatto dall'indomani. Ma certo, ci deve essere una delibera, ecco questo sì. E in questo diceva una decisione politica, cioè al Senato e alla Camera devono decidere, ok, ha ragione il professor Pace, ha ragione Zagrebelsky, lo facciamo, ma se non lo fanno... Ma però, ecco, mi permetto, io non direi una decisione politica, perché quando si dice politica è con una discrezionalità che va oltre il normale, invece qui con... Seguendo quello che dice Costituzione, legge e buonsenso si arriva a questa. Però lei sa, professore, che ci sono costituzionalisti che hanno dato pareri diversi dal suo. Vabbè. Vabbè, questo è un mondo plurale, no? Capisce che è lì che Zagrebelsky diceva a questo punto i giuristi giustificano tutto volendo. Guarda, in punta le racconto una cosa a questo proposito. Molti anni fa venne da me il presidente di un importante ente per chiedermi un parere e mi dice: professore, vede, io mi rivolgo a lei perché lo so che lei non fa i pareri pro pecunia, ma li fa pro veritate. E questo le fa onore, questo le fa onore. Io, professor Pace, che dobbiamo dire? La possiamo invitare quando e se alla Camera e al Senato prenderanno una decisione? Aggiurano che sarà settimana prossima, doveva essere ieri, ma poi ci sono stati i funerali di Stato a Milano e quindi è stata rinviata di una settimana. Io spero che decidano in questa maniera, sia nei confronti dell'opinione pubblica, sia perché le coordinate che le ho detto sono davvero inappuntabili. Sì, chiaro. Va bene, professor Pace, io la ringrazio molto per questa sua delucidazione e ripeto, se vuole e quando alla Camera e al Senato decideranno o non decideranno, evidentemente la richiameremo. Buona giornata ovviamente, professor Alessandro Pace, professore emerito di diritto costituzionale alla Sapienza. No, ci scrive un'ascoltatrice, Emma, parlava proprio di indegnità con la GN, non indennità. La legge Severino che prevede indegnità morale e quindi cade l'indennità. Capisco che il gioco di parole possa ingannare. Il traffico. Lavoratori, chi non lavora. Eccoci qui, cari ascoltatori. È il momento dei nostri lavoratori, coloro che con passione ci scrivono a 24 mattino e radio24.it per raccontare cosa fanno nella vita, di passione, del loro lavoro. Oggi voglio salutare Roberto, buongiorno Roberto. Ciao, buongiorno. Allora, Roberto fa un lavoro che farà molto piacere al mio amico Giuseppe Cruciani della Zanzara. Adesso ridiamo perché noi sappiamo. Roberto, dillo tu che fai. Produco sistemi anti zanzare per giardini, ecco, praticamente ecco. Con 2 minuti al giorno si levano le zanzare di torno. Ecco, questa però, voglio dire, sembra la pietra filosofale scovata, ma dai, ma ci sono dappertutto le zanzare, dovresti brevettare questa, ma com'è possibile? Infatti l'ho brevettata. Eliminare le zanzare per sempre, ma no. Sì, sì, è che è un sistema che sfrutta le caratteristiche della maggior parte delle zanzare. E cioè che fanno le zanzare? Che volano poco, sono molto pigre, volano basso e fanno piccoli tratti. Cioè una zanzara non vedrà mai la luce di una finestra al primo e al secondo piano, in diagonale, prende e sale. No, farà piano piano il giardino, poi la parete e sale fino alla cameretta e poi funge. La zanzara è pigra, questo è ufficiale. Sì. La zanzara è pigra, cari ascoltatori. Voi non lo sapevate, ma la zanzara è pigra. Quindi, però cioè, bisogna comprare le case nei piani alti. No, perché ci arrivano comunque, bisogna difendere il giardino, l'area di pertinenza delle case, anche con piani alti, in modo che le zanzare non arrivino neanche lì. E come si... cos'è questo sistema? In cosa consiste? Praticamente c'è una centralina che tramite un circuito con un tubino di 6 mm che viene disposto sul perimetro dell'area da proteggere, nebulizza 2 minuti al giorno acqua e piretro naturale. Acqua e che? Piretro naturale. E che sarebbe? Cioè sarebbe un insetticida però naturale estratto da un grosso margheritone. da un grosso marchio. Sì, che ha il vantaggio che non, praticamente essendo molto fotosensibile, sì, non si accumula nell'ambiente perché si disgrega la molecola con l'azione solare, praticamente l'azione della luce. E con questa nebulizzazione di qualche giorno che succede? Le zanzare che fanno? Giorno, tutti i giorni, tutti 2 minuti. Ah. E che fanno? Praticamente cosa fa? Proteggendo solo il perimetro, la zanzara quando capita sul perimetro, se prende la nebulizzazione muore, altrimenti c'è un effetto di repellenza dovuto cambia, al piretro, cambia, o la residualità del piretro sulla recinzione, sulla siepe, su quello che sia, cioè sulla muratura e così via. E va a impigrirsi da un'altra parte. Insomma, esatto. Va a impigrirsi da un'altra parte. E, ma adesso voglio dire, è come chiedere al venditore di ghiaccio se il ghiaccio è buono o è fresco. Funziona questo sistema? Allora, funziona benissimo. L'unico problema che può avere è con una zanzara tremenda che si chiama Aedes caspius, che praticamente è una zanzara migratrice, e non è affatto pigra, fa anche 25 km per cercare il pasto di sangue. Mannaggia. E con questa è un po' meno efficace, ma con tutte le altre zanzare, la tigre, la culex, la Aedes, funziona perfettamente. Ma tutta questa cultura sulle zanzare, da dove ti viene? La zanzara maratoneta, la zanzara pigra, la zanzara... Perché è dal 90 che mi occupo di disinfestazioni, e siccome non riuscivamo a dare soddisfazione ai nostri clienti, perché con i sistemi tradizionali devi dare tantissimo insetticida, impatto ambientale tremendo, perché deve essere anche residuale, devi fare un intervento, hai visto quei cannoni che nebulizzano, fanno anche i comuni, no? Sì. Quella roba lì dai delle botte allucinanti e però basta che piova, appunto basta che sia molto sole, insomma durano al massimo una settimana, quindi la gente deve stare scato, devi spendere un sacco di soldi. Roberto, allora adesso è il momento in cui ti devi fare un po' di pubblicità, dai i tuoi riferimenti, poi noi come al solito abbiamo la nostra mail, è 24mattino e tradio24.it, voi scrivete a noi se non avete capito e noi vi mettiamo in contatto. Ho il mio ottimo sito in cui si è spiegato tutto, che è www.izanz. Si dice iZanz come iPhone, iPad, certo. Hai l'iPhone, l'iPad, non hai l'iZanz. iZanz.com www.izanz.com o iZanz, se lo vogliamo, iZanz. Funziona anche contro Giuseppe Cruciani questa nebulizzazione? Bisognerebbe provarlo, lo inviterò a testare la cosa. Facciamo 2 minuti di nebulizzazione qui nella sede e vediamo. Roberto, sei stato simpaticissimo a raccontarci la storia delle zanzare pigre e maratonete. Roberto di lavoro ha studiato un sistema anti-zanzare. Con lui chiudiamo, grazie a Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Domani 6:30. Quattro mattino.